Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo chiaramente della deflazione, ossia di tutto ci siamo occupati in questo programma in questi 14 anni, ma della deflazione ancora no, non immaginavamo potesse essere un problema, ossia prezzi fermi se non molto spesso in calo. Ma lo è, e perché lo è? Perché la deflazione che l'Europa, a cui l'Europa assiste, nel caso specifico vi assiste l'Italia, è una deflazione dovuta sostanzialmente al crollo dei consumi, non a un mercato liberalizzato per cui i prezzi calano perché c'è maggiore concorrenza, come vorrebbe la parte virtuosa della deflazione, però perché la gente non consuma. Quindi il dato di dicembre sull'inflazione, come già vi hanno ricordato i nostri GR, vede un'inflazione stabile allo 0,7%, ma siamo ai minimi da 4 anni. Per Palermo e Venezia, due città prese chiaramente tra quelle che analizza l'Istat, è deflazione, nel senso che i prezzi sono in discesa anche a livello nominale, per cui meno 0,1% a Venezia e Palermo, è appena sotto lo zero, ma ufficialmente è deflazione. In realtà c'è un leggero aumento dicembre su novembre. Il carrello della spesa, quello dei generi più comprati, segnala ancora un po' di inflazione, un più 1,2%. Però perché, vedo già molti messaggi, perché la deflazione è un problema? Allora, banalissimo problema emotivo, anzi due. Il primo è perché quando i prezzi sono tesi in calo, tendenzialmente vengono rinviati gli acquisti, perché si aspetta che i prezzi calino ulteriormente, quindi va a bloccare la propensione all'acquisto. Il secondo aspetto è perché per tutti i debitori la deflazione, e quindi l'Italia è un paese debitore, ma vale anche per i privati, la deflazione in senso poi profondo, quando dovesse essere una deflazione seria, è una brutta notizia, perché se tu devi 1000 euro e hai un'inflazione, poniamo, al 3%, vuol dire che un anno dopo tu non devi 1000 euro ma ne devi il 3% in meno come valore reale, anche se il tuo debito è ancora di 1000 euro, ma sarebbero 30 euro in meno. All'opposto funziona con la deflazione, perché i tuoi 1000 euro di debito, se ci fosse, immaginiamo un caso d'accademia, una deflazione del 3%, quindi prezzi che sono calati del 3%, vuol dire che il tuo debito è, come potere d'acquisto, come valore reale, è aumentato di un 3%. E questo è il secondo aspetto problematico della deflazione. Di questo parleremo però anche di Alitalia, come avevo annunciato ieri, utilizzando un esempio virtuoso, forse l'esempio più virtuoso che c'è al mondo, cioè una compagnia, si chiama Emirates, che continua a macinare utili, fa mezzo miliardo di utili netti con 80.000 dipendenti, e ieri alla Malpensa, oggi a Fiumicino, si è messa a fare selezione di piloti, perché deve assumere 300 piloti per pilotare gli Airbus A380, quelli a due piani, e ne sta selezionando anche in Italia. Ieri ne ha selezionati 70 tra quelli che si sono presentati a Malpensa per il centro nord Italia, per il nord Italia. Oggi ne sta selezionando, vedremo quanti poi passeranno questi primi test, li sta selezionando a Fiumicino, per poi quelli che passeranno e verranno assunti si dovranno trasferire a Dubai. Ma lo dico perché noi parliamo spesso di compagnie aeree come se tutte fossero sullo stesso piano. In realtà ci sono compagnie aeree che continuano a crescere, a fare ordinativi, a aumentare i dipendenti, a aumentare gli utili. Parleremo anche delle polizze RC Auto, perché oggi presso l'ANIA, l'Associazione delle Compagnie di Assicurazione Italiane, è stato presentato un rapporto tra le assicurazioni italiane, l'RC Auto italiana, e quelle degli altri paesi europei. Allora, vi dico subito che in media l'RC Auto in Italia costa in media 213 euro in più rispetto ai quattro maggiori paesi europei che possiamo prendere come riferimento, e quindi Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna. Questo è il rapporto del Boston Consulting Group. Quello che incide è il costo dei sinistri, in particolare quello alle persone, ma anche la maggiore tassazione. Questo anche per commentare le norme recentemente introdotte dal governo con il decreto destinazione Italia, che dovrebbero consentire, secondo l'intenzione del governo, una riduzione delle polizze RC auto. Per quello che riguarda la borsa, oggi pochi spunti, invariata Milano, invariata Parigi, invariata Francoforte, invariata Londra, e invece in rialzo dello 0,30% l'America. Ancora parleremo invece, per quello che riguarda i temi di carattere più europeo, anche delle nuove regole per le banche, perché nel weekend il Comitato di Basilea ha informato tutte le regole sulla liquidità e l'indebitamento delle banche. Ma oggi l'ex presidente numero uno della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, all'Europarlamento ha detto: abbiamo evitato una grande recessione simile a quella del 29 grazie alla reazione dell'Europa e dei governi, ma non è ancora finita e stiamo sperimentando la peggior crisi dalla Seconda Guerra Mondiale, siamo ancora in crisi. Poi ha ricordato che ad agosto del 2011 vi fu la peggiore delle situazioni possibili, una situazione drammatica. Gli speculatori stavano pesantemente scommettendo sulla caduta di Spagna e Italia, attaccando il 40% dell'area euro. Per questo decidemmo di intervenire, per questo scrivemmo le lettere a Madrid e a Roma. Ancora dichiarazioni oggi del ministro Saccomanni, poi ne parleremo, su Draghi, che è definito un direttore d'orchestra che scandisce il ritmo della ripresa. Io non so, ogni tanto Saccomanni è un quasi immaginifico, Mario Draghi come direttore d'orchestra che scandisce il ritmo della ripresa, per quello che vediamo in Italia è più una nona di Beethoven se fa direttore d'orchestra, e qua di ripresa se ne vede pochissima, però vabbè, evidentemente altri paesi conoscono altri ritmi della ripresa. La borsa, accennava agli indici invariati, i titoli però come sempre hanno variazioni diverse: Jux meno 3,32, Ferragamo meno 2,60, Terna meno 1,40, Campari meno 1, Mediolanum meno 0,90, Pop Milano meno 0,90 anch'essa. Bene invece Mediaset più 3,35%, World Duty Free più 3,13%, Monte dei Paschi nel giorno del Consiglio di Amministrazione, anche di questo parleremo, più 2,21%, G-Tech più 2,13%, Buzzi Unicem più 1,70% come Atlantia, l'1,5% lo guadagna ST Microelectronics, l'1,40% Autogrill, l'1,40% anche Finmeccanica, l'1,30% Unipol, SAI e la Popolare Emilia Romagna. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, per quello che riguarda le altre notizie in breve, bene l'utile di JP Morgan, anche se in calo rispetto al trimestre precedente, per la banca d'affari americana 5 miliardi 280 milioni di dollari, pesano soprattutto i patteggiamenti per la vicenda Madoff. La banca ha patteggiato per complessivi 2 miliardi 600 milioni di dollari per la truffa di Madoff in cui era stata chiamata in causa, ed ecco perché del calo dell'utile del 7%. Per quello che riguarda invece l'economia italiana, già abbiamo detto delle dichiarazioni di Saccomanni, in realtà lo stesso ministro ha detto che una vittoria dei movimenti nazionalisti alle prossime elezioni europee potrebbe essere uno shock salutare per l'Europa, può essere, soprattutto per la Germania e per i paesi che hanno guidato le politiche europee fino adesso, cioè capire che se continuano così alimentiamo e viene alimentato un anti-europeismo viscerale di pancia, non mi interessa, ma viene alimentato da questa gestione dell'Europa. Poi, e non voglio tornare sul tema di ieri, che questo si scagli contro l'euro e abbia come obiettivo l'euro come capro espiatorio, a mio avviso resta profondamente sbagliato e assolutamente intellettualmente criminale proporre l'uscita dell'euro, però è ovvio che la benzina all'anti-europeismo la stanno fornendo alcune delle scelte prese dall'Europa stessa e dai paesi più forti di questa Europa, Germania su tutti. Manni, sempre un po' immaginifico, dice: l'euro non ha un difetto di fabbrica, non ha un difetto originario, siamo al primo piano di un edificio molto alto e soprattutto occorre completare il capitolo delle riforme istituzionali. Senza l'Europa, senza la Banca Centrale, senza l'euro, la crisi per l'Italia sarebbe stata maggiore. Ancora per quello che riguarda, vedo già molte domande sulle polizze RC auto, sulla deflazione, ci arriviamo a tutti i temi li affrontiamo. Volevo restare sull'Italia perché il ministro Giovannini, ministro del lavoro, oggi in un'audizione al Senato ha ricordato come nei primi 7 mesi di governo siano stati investiti nelle politiche attive e passive del lavoro oltre 5 miliardi di euro in più rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare sono previste risorse per le politiche attive per oltre 3 miliardi, con un aumento del 20% sulla spesa attuale. Nei 7 mesi di governo sono stati investiti sulle politiche attive e passive del lavoro oltre 5 miliardi di euro, in più di quanto previsto a legislazione vigente. Uno sforzo senza precedenti, direi, dettato dalla gravità della condizione occupazionale. E in particolare le scelte già fatte comporteranno un impegno aggiuntivo di risorse in politiche attive per oltre 3 miliardi nel prossimo triennio e quindi avremo un aumento annuo di circa il 20% rispetto a quanto fatto negli anni scorsi. Abbiamo più o meno 5 miliardi l'anno di spesa per politiche attive. Così il ministro Giovannini. Ancora per quello che riguarda la deflazione, allora io ho solo fatto presenti i pericoli dei prezzi in calo, non ho detto che i prezzi in calo siano sbagliati e basta. È ovvio perché per chi ha uno stipendio, a maggior ragione in busta paga, fisso, la deflazione significa aumento del potere d'acquisto, ci mancherebbe, per cui nessuno sta evocando l'inflazione come un elemento salvifico. È chiaro che lo stipendio a parità di valore nominale acquista in deflazione un valore maggiore, valore reale, perché i prezzi calano. Però attenzione, ho solo messo in guardia dal pensare che la deflazione, che i prezzi in calo, così come può sembrare in maniera istintiva, siano solo una bella notizia. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. E allora, prima di arrivare ai temi anche di che aria soffia nei cieli, qualche notizia di sprechi, ahimè anche oggi ce l'abbiamo. Allora, mentre il governo portoghese mette all'asta 85 opere di Miró per fare cassa, atteso un introito di 35 milioni e mezzo, non senza polemiche, vari intellettuali hanno fatto un appello in internet con 3.500 firme, lamentano una svendita. Noi ci occupiamo di cose un po' più prosaiche, perché oggi è stato arrestato l'ex capogruppo dell'Italia dei Valori, nonché ex vicepresidente della giunta regionale della Liguria, Nicolò Scialfa. Arrestato oggi dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta sulle spese pazze della regione Liguria. Scialfa è accusato di essersi appropriato di circa 70.000 euro di contributi erogati dalla regione Liguria al gruppo dell'Italia dei Valori e di aver utilizzato parte dei restanti contributi per fini esclusivamente personali. E poi in corso sono state effettuate anche perquisizioni a chi è agli arresti domiciliari nelle abitazioni di Fusco, Quaini, Piredda, indagati per falso documentale, peculato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Praticamente i consiglieri regionali indagati avevano rendicontato tra i costi personali sostenuti con i contributi della Regione Liguria spese non pertinenti all'attività politica o di funzionamento del gruppo per un importo di poco superiore ai 100.000 euro. Allora, e qui veniamo al presidente della Regione Piemonte Cota, che chiaramente ha anche altri problemi in questo momento, però attenzione. Cota si difende dall'accusa di peculato per 25.400 euro dicendo che le ricevute non erano tutte sue, non le faceva lui di persona quelle spese, c'erano i collaboratori che facevano gli acquisti. Lui non si è presentato in procura per parlare con i magistrati. Ha parlato invece al microfono di Maurizio Belpietro su Mattino 5, adesso ascolteremo un passaggio, però ha puntualizzato anche sulle famose mutande verdi comprate negli Stati Uniti con i soldi della regione, uno scontrino finito per errore pinzato insieme ad altri scontrini che non è stato nemmeno oggetto di rimborso perché la contabilità non è stata rettificata. E diverse prove di costruzione della Procura di Torino, il presidente ha pagato di tasca propria i boxer verdi nel negozio Martha's Vineyard di Boston e poi si è fatto rimborsare dal gruppo consigliare. Si tratta di 40 euro, io capisco il livello simbolico, non starei però a puntualizzare troppo sulle mutande verdi di Cota, ma sul resto sì. Resta infatti il mistero del dono dell'ubiquità di Cota e di alcuni consiglieri della Regione Piemonte. Cosa vuol dire? Vuol dire che i tabulati telefonici del telefonino di Cota e di altri consiglieri erano in un punto, abbiamo raccontato tutta la vicenda, e però le spese erano in un altro punto. Cioè il suo cellulare era il 13 alle 13.30 del 22 marzo da Exchi a Torino, ma già due ore dopo si trovava a Roma da Davide Cenci. Allora io capisco, tu stai pranzando a Torino e dopo due ore sei già in un negozio a Roma, è difficile. A comprare foulard per 112 euro il 10 giugno alle 14.18 il suo spendeva Cota 7 euro al bar di Francia di Torino, ma 6 minuti più tardi pagava 5 menù in un fast food di Rivoli. Ora da 5 minuti fare Torino centro Rivoli è dura anche con l'elicottero. Sono 43 comunque i consiglieri regionali piemontesi accusati di peculato dalla Procura di Torino per un totale di rimborsi per quasi 2 milioni di euro. E quindi nessuno vuole processare Cota per i 40 euro delle mutande, però complessivamente siamo a 2 milioni di euro. Sentiamo però Cota al microfono di Maurizio Belpietro questa mattina su Mattino 5. L'ho già spiegato, è una bufala assoluta, perché poi allora. Non è neanche stato oggetto di rimborso perché la contabilità è stata rettificata. Quindi si trattava di uno scontrino che è finito per errore, perché attaccato ad altri scontrini, evidentemente queste sono operazioni che non curo, che non curavo io, e assolutamente, guarda, in quell'occasione io sono andato a Boston a fare un corso e ho pagato tutto di tasca mia quando invece avrei potuto metterlo, diciamo, a rimborso, migliaia e migliaia di euro, quindi veramente qui stiamo facendo la caccia alle streghe. Quel tipo tutto di inventato. Spese, che peraltro erano spese dei partiti, mica li facevo io di persona, cioè c'erano i collaboratori che facevano degli acquisti per quanto riguarda le esigenze politiche, quindi non le facevo tutti io, anche qui è una bufala assoluta. Scusi Cota, con tutto il bene che le vogliamo, io capisco le esigenze politiche, ma qual è l'esigenza politica di comprare 112 euro di un foulard a Roma mentre lei risulta a pranzo a Torino due ore prima? Io sul foulard l'esigenza politica ho difficoltà a vederla, no? Non che il foulard non si metta sul volto, dico in generale, ci mancherebbe. Invece, per 4 anni l'assessore alla cultura di Bergamo, Claudia Sartirani, complimenti assessore alla cultura, ha parcheggiato la sua auto in divieto di sosta con talloncino giallo e rosso del comune in Bella Vista, nessuno l'ha mai multata. Erano solo ieri a Bergamo 13 veicoli in divieto di sosta con rimozione forzata, però nessuno li rimuoveva perché erano degli assessori. È arrivata la prima multa anche all'assessore dopo 4 anni di divieto di sosta. Bene, bene, almeno meglio tardi che mai. Oh, ma la cosa bella è come si è difesa la Sartirani. Sono 4 anni che parcheggio lì. Mi era stato detto che era possibile, infatti non mi hanno mai multata, non mi permetterei di approfittarne. Sartirani, c'è scritto divieto di sosta, rimozione forzata, ma che dobbiamo scriverci ancora? Guarda che questa fa l'assessore alla cultura. No. E poi vorremmo sapere come va anche il rapporto tra Carlo Cottarelli ed Enrico Letta. Carlo Cottarelli, il commissario alla Spending Review, perché sembra che ci sia qualche frizione, anche perché Cottarelli vuole iniziare la spending review dalla Presidenza del Consiglio e controllare alcune voci di spesa. Per esempio, l'abbiamo già raccontate, perché la Presidenza del Consiglio dei Ministri spende 20.000 euro l'anno per la fornitura di acqua minerale, 4.000 euro l'anno per la fornitura di caffè, 2.000 euro l'anno per i saponi delle lavastoviglie, 25.000 euro l'anno per il lavaggio delle tende. Sarà poco rispetto ai 32 miliardi, ma si inizia dalla testa. E questo non è piaciuto, forse la Presidenza del Consiglio non piace anche il fatto che Cottarelli sia così, diciamo, molto appariscente nelle interviste TV, nei giornali. E insomma, non si capisce nemmeno quale sia il rapporto tra Cottarelli e Renzi. Io spero invece che Cottarelli vada avanti e che, partendo proprio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, proprio dal Quirinale, proprio dal Senato, dalla Camera e poi giù, arrivi a tagliare 32 miliardi di spesa pubblica. Si può. La spesa pubblica italiana vale 801 miliardi, metà non è toccabile, ok, perché sono stipendi e pensioni, ma l'altra metà, almeno i consumi intermedi, che sono 140 miliardi, si può ridurre i consumi intermedi del 20%. Abbiamo già fatto la manovra finanziaria. Meteo, pubblicità e poi vediamo come si fa a mantenere inutile e far crescere l'utile di una compagnia aerea. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Di nuovo in diretta, adesso parliamo di Emirates. Giustamente però sulla pagina di Focus Economia su Facebook un ascoltatore ha postato un articolo del Wall Street Journal che sostanzialmente ricorda, io spero che arrivi una smentita dal ministro Bonino e dalla Farnesina, che la villa dell'ambasciatore, del rappresentante dell'ambasciatore italiano, l'ambasciatore italiano alle Nazioni Unite in Svizzera, a Ginevra, Maurizio Enrico Serra, costerebbe d'affitto al nostro paese 27.000 franchi svizzeri al mese, sono 22.000 euro al mese, 264.000 euro l'anno, con 12 bagni. In realtà poi con tutto il resto l'ambasciatore a Zurigo costa ai nostri contribuenti ancora di più, 500.000 euro l'anno. Allora, per favore, smentite questa notizia, perché l'ambasciatore, io capisco che c'è sempre il rischio di dichiarare guerra alla Svizzera, però voglio dire, l'ambasciatore alle Nazioni Unite in Svizzera, a Ginevra, Maurizio Enrico Serra, spendere anche un po' di meno per una villa, tra l'altro a Zurigo ci si arriva con un volo comodamente, insomma non è... Ho capito che ci vogliono le nostre ambasciate, ma perché con 12 bagni? Boh, non lo so, mi sto già arrabbiando troppo. Allora parliamo di una compagniera, appunto, che riesce a fare utili, cerchiamo di capire anche quale esempio possa arrivare per l'Italia. Eh sì, parliamo di Alitalia, per modo di dire, ma cerchiamo di prendere in un altro modo, ossia guardando, come dicono quelli che hanno studiato, le best practice, quindi i casi di eccellenza di altre compagniere, non in questo caso low cost, ma che risultano molto molto profittevoli, ossia macinano utili, guadagnano, aumentano gli utili, assumono. Un caso su tutti, perché sui giornali in questi giorni è la compagnia Emirates. Allora, è nata nel 1985 Emirates Airlines, quindi giovanissima, a Dubai. Attualmente conta qualcosa come 76.000 dipendenti, è una cifra impressionante, serve 140 destinazioni in 79 paesi. E pensate, a 212 aerei, ma tra quelli operativi in servizio e quelli ordinati, è la compagnia al mondo che ha ordinato il maggior numero di Airbus A380, per intenderci il più grande aereo al mondo, quello a due piani, ne ha ordinati in tutto 140, tra quelli che sono già operativi e quelli che arriveranno. 44 sono già operativi, gli altri arriveranno. E poi ha ordinato anche 150 Boeing 777X, il modello che ha preso il posto, per farci capire, del Jumbo per la Boeing, e ne ha altri 50. Ora stiamo parlando di cifre che per i Boeing valgono 76 miliardi e per l'ordinativo, diciamo, dell'Airbus siamo a 23 miliardi più altri 43 miliardi, insomma siamo a cifre che superano abbondantemente tutto sommato i 100 miliardi di euro solo per gli Airbus, più i 76 per i Boeing. È presente in Italia con 42 voli a settimana, di cui sono 3 giornalieri da Milano, poi 2 da Roma e 1 da Venezia, e ho inaugurato il primo volo da Dubai a Roma con l'A380 nel dicembre del 2011, ed è ancora l'unico collegamento in cui si vola sull'Airbus a due piani se si parte dall'Italia, l'A380. Soprattutto a ottobre di quest'anno ha lanciato un nuovo volo Milano-New York diretto, cioè senza fare scalo da Dubai, che è questo hub internazionale, dove io dico sempre, se uno vuole fotografare la globalizzazione cos'è, anche come facce, come modi, come etnie, vada a Dubai oppure voli a Hong Kong e vede dove sta andando il mondo e anche la ricchezza dove si sta distribuendo a livello mondiale. Il tutto cosa ha comportato? Ha comportato un aumento dei passeggeri trasportati l'anno scorso del 15%, 21 milioni e mezzo di passeggeri, un aumento delle entrate del 13%, 8 miliardi e mezzo, e un utile che sfiora il mezzo miliardo di euro, l'utile netto. E adesso continua a investire in Italia perché è partito quello che si chiama recruitment, quindi il processo di selezione. Perché? Perché Emirates sta cercando 300 piloti per pilotare appunto l'aereo due piani, l'A380. A Malpensa ha già selezionato 70 candidati che poi dovranno andare a Dubai per fare le simulazioni, i test medico-psicologici, le simulazioni di volo. Sono quasi tutti piloti che vengono dal nord Italia. E voglio dire, è abbastanza allettante quello che viene offerto, 5.100 euro netti al mese per un primo ufficiale, 9 euro l'ora per le ore di volo effettuate, 80 euro all'ora come premio di produzione per gli straordinari e poi benefit non da poco, sono 32.000 euro all'anno per la casa o villa con piscina fornita dall'azienda, 14.000 euro una tantum per l'auto, 9.000 euro una tantum per arredare la casa, 8.000 euro una tantum per ogni figlio alle elementari, 12.000 euro una tantum per ogni figlio alle medie o al liceo, e poi l'assistenza sanitaria, il dentista, biglietti senza limiti per mogli e bambini, due viaggi all'anno per genitori, fratelli, generi e suoceri, 42 giorni di vacanza oltre a quelli di riposo, e poi gli alberghi di lusso in cui dormono i piloti. E pensate che all'arrivo, ad ogni tappa, i piloti trovano alla reception i soldi in valuta locale per pranzi e cene che possono usare come vogliono. Lo so già, la battuta, sono piloti della Emirates, non politici italiani, perché raccontiamo in una rubrica, diciamo, pranzi e cene non autorizzati. Sì, lo vedo già i messaggi, peccato non aver fatto il pilota, lo so, a me lo dite. Però siamo in collegamento con il direttore generale di Emirates Italia, Fabio Lazzarini, buonasera. Buonasera, dottore, buonasera agli ascoltatori. Una cosa, poi andiamo sulle cose serie, non che non siano serie queste, ma questi benefit sono per la casa a Dubai di questi piloti? Casa a Dubai. A casa Dubai. Tra l'altro uno di quelli che ha mandato il messaggio, la prossima volta che nasco faccio il pilota, sono io. Ah vabbè, perché lei non fa il pilota, lei fa solo il manager. Sentendo snocciolare i benefit è venuta voglia anche a me. Ecco, è importante che comunque abbiate trovato su 300 piloti che state cercando a livello mondiale 70 già preselezionati a Malpensa, voglio dire in Italia, no? Assolutamente, assolutamente. Poi penso oggi c'è la stessa cosa a Fiumicino, per cui vediamo anche sulla parte centro Italia, centro sud. Senta, molti vengono dall'Italia? Non ho il dato di preciso, mi immagino di sì, però immagino di sì, dottore, sì. Ecco, mi chiarisco una cosa, adesso io non voglio, allora sarebbe poco corretto e poco elegante chiedervi un commento sull'Italia, che è un vostro concorrente, e chiedervi un commento anche su Etihad, che è un vostro super concorrente, visto che Etihad è la compagnia di Abu Dhabi, certo. Voi lavorate su Dubai, dicevo, sarebbe poco elegante chiederglielo, ma chi se ne frega. Che cosa ne pensa dell'ingresso di Etihad in Alitalia? Del chiacchierato ingresso. Del chiacchierato ingresso. Avete paura? Noi abbiamo una strategia diversa. Non necessariamente riteniamo che quelle degli altri siano sbagliate. Noi, una cosa che mi piace di questa azienda è che cerchiamo di guardare a noi stessi, poi di guardare ai clienti nostri, che sono la cosa più importante. Noi abbiamo una strategia diversa, nel senso che noi abbiamo una ferma convinzione che una compagnia delle nostre dimensioni e delle nostre ambizioni di crescita possa essere gestita in maniera efficiente con un hub solo, quindi con Dubai, che per noi è il centro del nostro mondo, e come lei ha detto prima, ho sorriso quando lei diceva andate a Dubai a vedere questa commissione di etnia e cosa vuol dire il mondo. Cosa dire la globalizzazione attuale, esatto, e la ricchezza come si è, esatto, distribuita. Dove si sta spostando l'asse? Noi abbiamo la fortuna che il nostro hub è messo in un posto che entro sei ore, un raggio di sei ore dal nostro hub vive più o meno il 70% della popolazione mondiale, ed è la popolazione mondiale quella che sta diventando ricca, insomma quella che sta diventando. Per cui noi abbiamo questa strategia. Altri operatori, tra cui Etihad, hanno una strategia diversa di partecipazione in altre compagnie, non è la nostra, ripeto, non è la nostra strategia. Quindi voi non sareste interessati comunque dall'Italia? Anche? Noi, il nostro presidente, dico una cosa pubblica, perché il nostro presidente, quando abbiamo inaugurato la Malpensa, abbiamo fatto la cerimonia d'apertura del Milano New York, a domanda, in quel caso lì, di un sindaco del Varesotto che chiedeva ve la volete comprare o meno, il nostro presidente ha appunto elencato questo come ha motivato il non interesse, non nei confronti dell'Italia in particolare, ma nei confronti di nessun'altra compagnia aerea, con questa nostra strategia. Noi anche abbiamo una strategia di assenza dalle alleanze internazionali, noi non siamo in nessuna delle alleanze di compagnie aeree, cerchiamo di coprire il mondo con il nostro network e con alcune alleanze spot su alcuni territori, ma senza mai entrare in nessuna alleanza. Ecco, però una cosa ce la può dire, adesso ho capito che voi non volete commentare quello che potrebbe essere l'eventuale, il ventilato ingresso dei vostri concorrenti, degli Emirati, Abu Dhabi, in Alitalia, ingresso che, stando alle indiscrezioni, lo ricordo a tutti, vorrebbe dire il 49% di Alitalia, per un totale di 350 milioni, ammesso e non concesso che questa operazione poi vada in porto, certo, e che permetterebbe a Etihad però di mettere un piede importante nel traffico aereo, perché c'è una cosa che va chiarita anche agli ascoltatori: per legge dell'Unione Europea le compagnie non dell'Unione Europea non possono servire le tratte interne, cioè Emirates non può fare il collegamento Roma-Londra via Emirates, può fare il collegamento fuori dall'Europa, tutti quelli che vuole, ma non, partendo da Roma, ma non può fare le tratte interne. E anche il limite del 49% è un limite di legge. E il limite del 49% è un limite di legge, però questo permetterebbe a Etihad, per esempio, di dire ti facciamo fare Londra-Roma e poi Abu Dhabi. Però mi dica una cosa, cioè voi siete una compagnia che è considerata una compagnia a tutti gli effetti non low cost, per quindi classica compagnia di bandiera, anche con una qualità alta, perché voi andate in concorrenza con Cathay, con i grandi vettori dell'Asia, però avete dei numeri che ricordano quasi le grandi compagnie di charter, i grandi numeri low cost e le destinazioni che servite. Allora, io vorrei capire, secondo lei l'errore di Alitalia è da non ripetersi, o se vogliamo girarla, la chiave di volta, l'elemento vincente in questo momento è essere o low cost o, diciamo, long haul, quindi è tratta molto lunga, e l'errore di Alitalia è stato finire in mezzo, non essere né carne né pesce, né low cost, né dare gli aerei e le tratte laddove c'è ricchezza, penso all'Asia, penso al Sud America in forma massiccia, penso anche agli Emirati, a tutto il Golfo Persico. Certo. Ma qui è veramente opinione personale in questo caso, io sono abbastanza convinto, se uno guarda in questo momento come il business delle compagnie aeree, vede che le compagnie aeree che hanno la maggiore profittabilità e la maggiore profittabilità prevista per i prossimi anni sono proprio o quelle a lungo raggio, a full service, quelle che vengono dette full service, quelle che garantiscono servizi di eccellenza. Emirates l'anno scorso ha vinto il premio come migliore compagnia aerea del mondo per i suoi servizi, non soltanto per i servizi a bordo, per i pasti, per il sistema di intrattenimento, per la puntualità, tutta una serie di cose che ovviamente hanno dei costi e di conseguenza devono essere poi pagati nel momento in cui si viaggia, oppure le low cost. Chi sta in mezzo, secondo me, in questo momento soffre di alcuni problemi, c'è una concorrenza per esempio sul territorio nazionale, ma non soltanto in Italia, anche negli altri paesi europei c'è una grossa concorrenza di treni ad alta velocità, pensiamo alla Francia, pensiamo alla Spagna stessa, dove ormai Madrid-Barcellona è fondamentalmente fatto in treno, e l'Italia ne è un esempio evidente, per cui focalizzarsi sul trasporto nazionale è rischioso, perché ci sono altri concorrenti, in primis, ripeto, il treno ad alta velocità, e le compagnie low cost che sono diventate di fatto un carrier importantissimi sia per il territorio nazionale che per il territorio regionale, però se quando si viaggia in Europa dall'Italia la low cost rappresenta sicuramente una scelta importante e occupa una grande fetta di mercato, il che poi comporta che le compagnie tradizionali, per riuscire a reggere con la concorrenza, che è una concorrenza anche di prezzo, anche di tariffe, seguono le low cost sul territorio dei prezzi bassi, non essendo però a basso costo, e questo è un po' un bisticcio di parole, però le low cost possono permettersi certi prezzi perché hanno un'operatività e un'efficienza che le rende low cost. Alcune compagnie invece hanno ancora un'operatività e hanno ancora una struttura organizzativa che non è per nulla a basso costo, però sono costrette a seguire certe compagnie sul territorio dei prezzi bassi, con questa antitesi di avere il prezzo basso ma non il costo basso, e di conseguenza poi generando delle perdite, per cui cosa che invece è diversa sul lungo raggio: nel lungo raggio le low cost non arrivano perché hanno un limite tipicamente di operatività che si ritiene attorno alle 4 ore, adesso EasyJet ha cominciato a volare a Sharm el-Sheikh, che è un pelino in più delle classiche 4 ore, però si ritiene che questa sia il raggio entro cui una low cost riesce ad essere efficiente. Efficienza vuol dire far ruotare gli aerei molto velocemente, stare più in aria possibile, meno a terra possibile, eccetera eccetera, mentre il lungo raggio in questo è fondamentalmente protetto, però è chiaro che deve combattere su altri fronti. Lei ha citato i nostri cugini di Abu Dhabi e più tutte le altre compagnie che concorrono sul lungo raggio con servizi di ottima qualità e con una rotta fondamentalmente, con rotte che servono centinaia di paesi e di conseguenza con grande complessità. Grazie, no, quindi ho capito, insomma, cioè, un po' come in altri settori, penso al settore tessile, della moda, ma non solo, qui la polarizzazione è stata fortissima, Lazzarini, tra le low cost nella moda, nel tessile, parliamo appunto dei capi a basso costo e a basso anche valore aggiunto che si fanno in Vietnam, in Cina, e invece chi si è collocato ed è rimasto vivo sulla fascia medio alta, anche nel mondo del mutatis mutandis delle compagniere, o fai low cost oppure fai le lunghe tratte offrendo aerei grandi, importanti, anche il servizio, e coprendo le destinazioni dove si crea ricchezza. Se stai in mezzo fai la fine dell'Italia ma anche di altre compagnie di bandiera. Grazie al direttore generale di Emirates Italia Fabio Lazzarini. Non vi dico che cosa, i messaggi che hanno scritto alcuni ascoltatori sui benefits dei piloti che verranno poi presi da Emirates, dov'è la fregatura, ti sodomizzano, chiede uno. Non c'è nessuna fregatura. Cioè, Emirates ha i soldi, fa utili, vuole i piloti e quindi è disposto a pagarli anche con i benefits. Traffico. Dalle compagniere, prima di arrivare alla borsa, all'RC Auto. Allora, che l'assicurazione RC Auto costi più in Italia che altrove non lo diciamo noi, lo dice la stessa associazione delle compagnie di assicurazione con un rapporto oggi realizzato, uno studio da The Boston Consulting Group. In Italia l'RC Auto costa in media 213 euro in più rispetto ai 4 maggiori paesi europei: Francia, Spagna, Germania e Inghilterra. Rapporto presentato oggi anche per capire quali vantaggi arriveranno a noi, agli automobilisti, dal decreto del governo Destinazione Italia. Siamo in collegamento con il presidente dell'ANIA, quindi dell'associazione che raggruppa le compagnie di assicurazione italiane, Aldo Minucci. Buonasera presidente. Buonasera. Allora, avete certificato che siamo fregati, nel senso che noi abbiamo un costo medio di 520 euro che è di 213 euro, che è quasi il 50% più alto della media dei paesi europei. Perché? Dei paesi a noi vicini, diciamo Francia, Spagna, Germania e Gran Bretagna. Ma noi non abbiamo mai negato che i nostri prezzi fossero più alti degli altri quattro paesi. Abbiamo insistito sempre per individuare le cause di questo discrasia di prezzo, e finalmente abbiamo cercato di, con questo progetto di studio portato avanti da Boston, di chiarire a tutti oggettivamente quali sono gli elementi che giustificano questa variazione. E quali sono? Gli elementi, il primo e principale è finalmente una approvazione delle tabelle di valutazione delle cosiddette lesioni gravi, che come già il settore aspetta da 7 anni e che doveva essere definitivamente approvato già nel corso del precedente Consiglio dei Ministri e che invece inopinatamente all'ultimo minuto è saltato. Questo fattore è un fattore determinante perché è una delle cause più significative di discrasia rispetto agli altri paesi, perché gli altri paesi hanno valutazioni significativamente più basse di quelle che in Italia sono praticate in base alle decisioni del Tribunale di Milano. Allora, la seconda componente fondamentale è l'incidenza delle frodi in Italia rispetto agli altri paesi. La terza componente è una componente che negli altri paesi viene dato più spazio alla cosiddetta esecuzione in forma specifica, che è la liquidazione del risarcimento del danno in forma specifica, vuol dire attraverso la riparazione del veicolo in carrozzerie convenzionate, che negli altri paesi è un uso molto più diffuso e che determinerebbe ulteriori e significative riduzioni di costo, perché ci sarebbe la standardizzazione dei costi di manutenzione dei pezzi di ricambio e poi una significativa incidenza sulla riduzione delle frodi. Allora, ho capito, soprattutto il fronte lesioni gravi e i ricorsi, diciamo, il numero di sinistri, posso dirla tutta, voi dite sono gli automobilisti italiani a essere un po' meno onesti, posso usare questo termine, rispetto ai francesi, spagnoli, tedeschi e inglesi? Sì, non è che gli automobilisti nel loro complesso, in aree particolari del territorio... E ci dica quali paese. Però, Presidente, ci dica quali aree... Per esempio il caso tipico è, diciamo, la Campania, la Calabria, la Puglia, quindi sono aree in cui gli inquinamenti di natura un po' delinquenziale incidono significativamente sulla creazione di incidenti fasulli o la lievitazione dei costi degli incidenti in maniera... Sì, però mi scusi, le faccio una domanda, ma allora se si colloca questo vizio, per non dire questa colpa di falsificare, testimoniare il falso sull'incidente, per cui le lesioni sono spesso lesioni gravi, anche non ti sei fatto nulla, se vieni toccato da una macchina hai subito il collo bloccato, sappiamo perché le polizze in media sono più alte in tutto il paese. Voglio dire, il federalismo si può applicare anche in questo modo. Allora, sapete che in Campania c'è una tendenza, in Calabria, in Puglia, ad avere un numero di infortuni, di lesioni gravi più alto della media italiana e di altre regioni, per a parità di incidente, o sono più fragili e delicati, oppure c'è una truffa. Ma perché paghi di più anche, che ne so, in Toscana, in Piemonte? No, ma l'informazione non corrisponde alla verità. No, prego. Perché proprio lo studio di Boston ci dice con chiarezza che al di là delle punte che sono caratterizzano determinate regioni nostre, ci sono altre regioni in cui invece non c'è questa discrasia tra i prezzi praticati in Italia e quelli praticati negli altri paesi. Quindi è proprio questa argomentazione che ci induce a dire che ci sono alcune regioni in cui il peso della frode rappresenta degli elementi fortemente caratteristici e significativi. Poi, come le dicevo prima, ci sono gli altri elementi. Se le tabelle della valutazione delle lesioni gravi, che valgono su tutto il territorio nazionale, in Italia sono più alte di quelle che sono praticate in Francia, in Germania, in Inghilterra e soprattutto in Spagna, è evidente che questo è un fenomeno che determina la differenza di prezzi anche nelle regioni cosiddette sane. Ecco, Presidente Minucci, mi dica altre due cose, però Adusbef e Federconsumatori dicono che, voi avete ricordato come nel 2013 il costo medio delle polizze auto sia sceso del 5%. Anche perché sono diminuiti gli incidenti, probabilmente anche perché con la crisi circolano meno macchine. È così. C'è minor traffico e ci sono meno incidenti, questo lei me lo conferma. Però Adusbef e Federconsumatori dicono che dal 94 al 2012 le polizze RC Auto hanno fatto più 245%, cioè da 700.000 vecchie lire. Ma perché loro fanno sempre riferimento a questi dati che non sono né significativi? Guardano l'andamento del costo che c'ha l'RC Auto in Italia in questi ultimi anni. Noi cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che nel corso del 2012 e soprattutto nel 2013 è cominciato un processo di riduzione delle tariffe in conseguenza di quegli elementi che lei ha sottolineato, cioè che c'è una minore circolazione delle auto per effetto della crisi economica, per effetto del costo dei prodotti petroliferi. E ovviamente meno circolazione, meno sinistri ci sono. Mi scusi Presidente, però se calano i costi delle RC auto, perché noi guidiamo meno e perché cala il petrolio? Voi non avete nessun merito però a questo punto. No, abbiamo il merito di essere credibili per il fatto che comunque non ribaltiamo al nostro vantaggio queste situazioni, ma li trasferiamo queste riduzioni sugli assicurati. Ma è proprio per rispondere a questa sua osservazione, è che siccome riteniamo che questi elementi sono congiunturali, cioè legate a situazioni che possono e sperabilmente crediamo che debbano cambiare almeno nel 2015 che cambi la situazione economica, noi abbiamo chiesto al governo e alle istituzioni politiche che facciano degli interventi normativi proprio per inserire degli elementi strutturali che incidono sulla. Allora resti con noi perché adesso ho il GR, poi vorrei come ultima cosa sapere appunto come giudicate alcune norme previste nel decreto destinazione Italia e poi che interventi chiedete. Dopo il GR 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'intervista col presidente dell'ANIA e quindi dell'associazione che riunisce le compagnie di assicurazione italiane, poi passare alla borsa e poi commentare anche i dati sulla deflazione più che inflazione. Allora dicevamo di polizze più care, polizze RC Auto più care in media di 213 euro rispetto alle polizze RC Auto francesi, spagnole, tedesche e inglesi. Voi vantavate, Presidente Menucci, un calo negli ultimi due anni delle polizze per via del fatto che noi guidiamo meno perché c'è la crisi e il petrolio costa meno. Io ricordavo invece il dato che diffonde sempre Federconsumatori e Adusbef, che dal 94 al 2012 le polizze RC Auto hanno fatto più 245% e le polizze per i motorini più 480%. Poi ricorderete negli anni passati vi fu anche un'accusa di cartello sulle compagnie di assicurazione, ma restiamo al presente. Che cosa vi attendete dal decreto del governo Invest Italia, destinazione Italia, sull'RC Auto? Entro febbraio va fatto approvare in Parlamento, però se ben ricordo c'è uno sconto del 7% minimo per chi accetta di farsi installare la scatola nera, del 5 o 10% a seconda delle aree per chi accetta le riparazioni in un'officina scelta dalla compagnia, del 4% per chi si impegna a rinunciare alla facoltà di cedere al carrozziere il proprio credito verso la compagnia e altre novità. I testimoni vanno individuati e dichiarati subito dopo il sinistro, scende da 2 anni a 90 giorni dal sinistro il tempo per la richiesta di risarcimento e poi il tempo per la compagnia per avere la perizia passa da 5 a 10 giorni. Che cosa dovremmo ottenere da questo, Presidente? Dunque, lei come ha citato tutta una serie di elementi innovativi portati dal decreto che hanno delle componenti positive di impatto significativo sulla riduzione dei prezzi. Purtroppo il nostro giudizio è variegato perché accanto a questi elementi positivi il decreto introduce 2 o 3 cose che per noi non funzionano. Intanto in linea di principio le dico che per noi non vanno bene la prescrizione di sconti minimi. Io credo che sia legittimo lasciare al mercato la determinazione degli sconti che vuole praticare, come ha sempre fatto in relazione alla diminuzione del costo dei sinistri, che noi ribalteremo subito a favore degli assicurati in termini di riduzione dei prezzi. Detto questo, siccome noi crediamo molto sul significato di questa riforma e con cui abbiamo collaborato molto fattivamente per cercare di portarla in porto, ci dispiacerebbe se questa riforma potesse, possa correre il pericolo di essere messi in crisi per la presenza di due o tre norme in particolare che sostanzialmente non sono vantaggiose per gli assicurati, non determinano elementi di riduzione del costo di sinistra e quindi incidono sui prezzi, ma non fanno altro che determinare degli appesantimenti gestionali per le imprese. Mi riferisco velocemente a due componenti in particolare. Uno, che è quello che è stato imposto l'obbligo alle imprese di fare l'ispezione del veicolo prima della conclusione del contratto, ma questo obbligo che vale in tutto il territorio nazionale, e questa componente determina degli elementi di illegittimità perché incide sulla libertà del prodotto delle imprese sancite dalla Comunità Europea, ma soprattutto crea ulteriori elementi di discriminazione concorrenziale, perché per esempio chi ha una struttura distributiva con agenzie su tutto il territorio nazionale può in qualche misura organizzandosi ottemperare a questo tipo di obbligo, chi invece come le compagnie dirette, che sono quelle che hanno portato maggiori elementi di concorrenza e di riduzione dei prezzi, non avendo una presenza territoriale hanno grandissime difficoltà ad ottemperare questo obbligo, quindi l'eliminazione di questo obbligo per noi è essenziale. La secondo obbligo che dovrebbe essere eliminato è quello che impone alle imprese di garantire prestazioni sanitarie con i propri medici agli assicurati, ai propri assicurati contraenti. Mi sembra una norma anticostituzionale che tocca un tema particolarmente delicato, che è la libera scelta di come farsi, da chi farsi curare e visitare per i cittadini. Sì. Quindi anche questo è un elemento. Allora, Presidente, però mi faccia dire due cose. Va bene tutto, però non raccontiamocela. Voi come mondo assicurativo avete avuto una condanna della Cassazione e anche dell'antitrust per l'accusa di cartello, cioè negli anni passati, cioè che le compagnie si mettevano d'accordo per posizionare. No, un attimo, mi faccia finire. Allora, su questo io capisco cosa dice lei. Dice sarebbe bello che decidesse la singola compagnia che sconto applicare sulla scatola nera. Però evidentemente sapendo che c'è il rischio che così magari in maniera qualche modo telepatica vi mettiate d'accordo sulla parte minima, il governo ha detto minimo il 7%, poi dopodiché uno può fare il 10%, la concorrenza resta. Guarda, secondo aspetto, lei mi può dire solo una cosa invece, lei come presidente dell'ANIA ci può garantire che tra le compagnie di assicurazione vi sarà sul tema RC Auto sempre maggiore concorrenza? Questo non poi mi interessa. Non c'è alcun dubbio in proposito. Mm. Le porta anche un argomento a favore della tesi di che gli sconti, che le riduzioni di prezzo si fanno. L'anno scorso c'è stata una norma del governo che ha modificato il trattamento delle cosiddette lesioni lievi, quelle che erano i colpi di frusta, facendole diventare gli approcci più rigidi da parte della struttura medicale che li accertava, non più criteri soggettivi. Benissimo, non c'era nessun obbligo di sconto. Sa quanto è stata la modifica dei prezzi che le imprese tutte hanno praticato per effetto di questa diminuzione di costi? L'1,5%. E non c'è stato bisogno di sancirlo, di obbligarle, per dire che le imprese, in presenza di fattori strutturali che modificano il costo di sinistri, sono pronte a intervenire significativamente sui prezzi. Vabbè, però io non ci trovo niente di male nel 7%, mi dicono cosa sulla... Guarda, non è una questione di principio, perché negli altri paesi non sono mai previsti. Perché il confronto con gli altri paesi si fa solo sui prezzi e non sul sistema normativo? Senta, ma la concorrenza dell'online fa bene, perché si spende meno con online. Non c'è dubbio, ed è per questo che noi sosteniamo che non bisogna sfavorire con questo decreto le compagnie dirette imponendogli un obbligo della verifica preventiva della macchina. Come faccio io che ho la sede solo in una città a osservare questo obbligo in Sicilia? È chiaro che mi crea una difficoltà, quindi è un elemento che disturba la componente concorrenziale che le dirette possono fare, ed è per questo che noi proponiamo l'eliminazione. Allora nel ringraziare le lascio due sms come spunto. Uno, devo dire, ha ragione, scrive un ascoltatore, immagino di Napoli, che dice: ma scusatemi, perché io devo pagare di più perché risiedo a Napoli se non ho mai fatto un incidente? Perché è chiaro che lì, come lei ci ha spiegato, per tutto un aumento o meglio dalla rischiosità tipica di quell'area e noi vogliamo intervenire con cambiamenti normativi per ridurre la rischiosità dell'area Campania in maniera tale che giustamente i napoletani o i campani in generale possono pagare prezzi più ridotti e più adeguati. Sì, questo è chiaro, poi magari si mette anche la scatola nera, però ha ragione ha ragione anche lui, altri fanno notare di stare attenti perché delle volte il vero problema è l'accordo tra periti e carrozzerie. Però attenzione, ci scrivono anche i carrozzieri che dicono non siamo tutti delinquenti e ci mancherebbe. Io adesso però non è che posso aprire 20 fronti con 20 categorie professionali diverse. E quindi con questi due spunti ringrazio il presidente dell'associazione che riunisce le compagnie di assicurazione in Italia, Aldo Minucci. Lascio la linea al traffico, poi parliamo di borsa e di deflazione. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Non vi spaventate, la deflazione altro non è che i prezzi in calo. 18 e 16 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la borsa oggi giornata abbastanza piatta su tutti gli indici, più 0,17% Milano, più 0,26 Parigi, più 0,30 Francoforte, più 0,14 Londra. Bene Mediaset, più 3,87%. C'è molta speculazione sul titolo anche per l'accordo potenziale in Spagna, però ha toccato i 4 euro sui massimi dal maggio del 2011, 4,02 euro. Poi World Duty Free più 3,81%, Monte dei Paschi, adesso parleremo di Monte dei Paschi, più 2,60%, G-Tech più 2,5%, Atlantia più 2%, bene anche Saipem più 1,30%, ipotesi di fusione sul titolo, di fusione sul gruppo e sul settore spingono il titolo. Ancora per quello che riguarda ST Microelectronics, più 1,70%, sfrutta l'andamento positivo di Intel. Un po' di correzione sui bancari oggi, con Pop Milano che perde lo 0,60, Generali lo 0,30, Unicredit pure, e di nuovo vendite sul lusso, Ferragamo meno 2,70, Luxottica meno 1%, Tod's meno 0,50, segnalo Yux meno 3,35%. Da Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Vorrei solo un approfondimento sul Monte dei Paschi. Sono rimasti Alessandro Profumo, presidente, e Fabrizio Viola, amministratore delegato. Il CDA dovrebbe essere finito da pochi minuti, anche se non c'è ufficialità, sembra che le cose siano andate come nelle attese, cioè che i due manager restino alla guida del gruppo. Non c'è ufficialità su questo e le notizie sono ancora abbastanza confuse, diciamo così, o se non altro non sono uscite. Perché ricordo che nello scontro tra manager e Fondazione Monte dei Paschi i due avevano minacciato in maniera molto seria anche le dimissioni se non fosse passato l'aumento di capitale subito e non a giugno come vuole la Fondazione per avere più tempo. Esattamente, c'è stato un mese di forte tensione con anche una, diciamo così, pressione, intervento da parte della Banca d'Italia in modo tale da mantenere la stabilità operativa e quindi l'amministratore delegato in primis, ma anche il presidente Profumo, in un momento così delicato per l'istituto senese che dovrà vivere una fase di ricapitalizzazione, di ricerca di nuovi soci sarebbe stato fortemente penalizzato la perdita delle guide operative. Così sembra che sia andata, il titolo ne ha beneficiato, ha guadagnato il 2,6% in attesa di questa ufficialità e di questa conferma che, ricordiamo, non è ancora arrivata. Oggi è stato il migliore del settore bancario, mentre altri, come tu ricordavi, hanno un po' ritracciato, sono andati in bene invece Intesa San Paolo, la popolare dell'Emilia Romagna. E tu appunto ricordavi, una battuta possiamo farla su Yux invece? Sì, un settore lusso che si sta caratterizzando, diciamo così, in negativo, ma probabilmente era nelle cose in questo inizio di 2014. Yux era stato il miglior titolo del FTSE MIB, anche perché c'era entrato solo nelle ultime settimane di contrattazione del 2013, ma aveva guadagnato praticamente il 150-160% nel corso del 2013, una correzione che non riguarda solo Yux, ma riguarda molti titoli del settore lusso. Tu hai ricordato Ferragamo meno 2,7%, oggi anche Brunello Cucinelli ha corretto di quasi il 3%, sì. Moncler ha perso circa l'1%, quindi un momento di respiro sul settore che, viste le corse del 2013, era anche probabilmente nelle attese. Sì, questo va detto che è stato uno dei settori che più ha corso l'anno nel 2013. Migliori e peggiori Zucchi, complimenti a Buffon, più 19%, Aerial più 18%, Industria e Innovazione più 17%, Premuda più 10,50%, Stefanel più 5,20%, come più quadro, questi migliori. Peggiori invece SERT pagina gialla meno 5,20, Banca Generali meno 3,60, appunto Iux, poi Poligrafici Editoriale meno 3% e Brunello Cucinelli, altro titolo del lusso, meno 2,90%. Grazie Andrea Fontana, Radio Cori sulle 24 ore. Buonasera. Adesso parliamo di politiche monetarie, le questioni monetarie, detto così sembra di essere già in un'aula universitaria, no, parliamo di quello che sta capitando in Italia e in alcuni paesi europei, che io non ricordavo a memoria mia personale, e cioè che i consumi sono così bassi, l'economia è così stagnante che i prezzi si sono messi anche a calare, ma non come tendenza, proprio anche a livello nominale. A Palermo e a Venezia, lì è stato oggi nel fotografare l'andamento dei prezzi al consumo nel mese di dicembre, dice che Palermo e Venezia sono le due città in cui si è tecnicamente in deflazione, cioè meno 0,1%, di pochissimo sotto lo zero, ma tecnicamente sono prezzi in calo. Professor Franco Bruni, che insegna economia monetaria alla Bocconi di Milano, buonasera. Buonasera. E che è vicepresidente dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Oggi avete avuto ospite il ministro Saccomanni. Certamente. Che ho visto dichiarare che Mario Draghi è un direttore di orchestra contro la crisi, e poi che una vittoria dei nazionalisti, quelli anti-euro, potrebbe essere uno shock utile per l'Europa, che l'euro non ha un difetto di fabbrica, siamo al primo piano di un edificio molto alto. Come l'ha trovato Saccomanni? Ottimista sul futuro dell'Europa e diciamo stanco, chiaramente. E sul suo di futuro? Appunto, stanco per il lavoro che fa, e ma immagino, spero sereno sul suo futuro, qualunque cosa gli capita. Ma è preoccupato Saccomanni della deflazione? Ma sa, la deflazione siamo preoccupati un po' tutti sul fatto che i prezzi crescono meno di quello che si considera normale e giusto in Europa. Non siamo alla deflazione vera e propria, che si ha solo quando le aspettative cominciano a essere quelle di prezzi che veramente calano, e quindi la gente comincia a rinviare gli acquisti aspettando di poter comprare più a buon mercato. Allora quello è il momento in cui si cade in vita, è successo in Giappone diciamo per alcuni anni. Noi siamo ancora lontani da questo problema, però l'inflazione è pericolosamente bassa, come è un indicatore del fatto che l'economia è debolissima. Ecco, teniamo però conto di almeno due fattori, se vogliamo fare, diciamo, dire qualcosa di originale. Diciamo che ci sono due aspetti positivi, insomma, in un certo senso. Uno, nel caso dell'Italia, noi abbiamo avuto per diversi anni l'inflazione più alta degli altri, e questo ci ha, della media europea, e questo ci ha messo fuori competitività, insomma. Quindi noi abbiamo bisogno di che i nostri prezzi non crescano molto. E quindi questo è un aspetto. L'altro è che effettivamente dal punto di vista del potere d'acquisto dei consumatori e dei risparmiatori, avere i prezzi che sono più bassi aiuta, ecco. Però questo proprio, insomma, sono delle affermazioni che insomma non tolgono che nel complesso è un segnale diciamo pericoloso, anche perché con l'inflazione cresce poco il PIL nominale, cioè il PIL compresa l'inflazione, e questo rende più difficile per noi diciamo obbedire a quel progetto, a quella disciplina europea che vuole che il nostro rapporto debito PIL scenda un certo numero di punti, diciamo, nei prossimi anni. Sì, ha ragione, questo è un elemento che spesso non consideriamo, però siccome il deficit lo tieni, il PIL cresce anche per metodo dell'inflazione, cioè tu produci la stessa cosa, ma siccome i prezzi sono aumentati, è come se tu producessi, poniamo, il 3% in più, se i prezzi aumentano del 3% esatto. In più. In realtà a livello reale produci uguale, a livello nominale però. Quindi questo rischia di costringerci a tagliare di più i deficit per rispettare questo. Senta, ma Saccomanni, una parola contro la Germania, contro questa Europa che rischia di dare benzina al fuoco degli anti-euro, degli anti-europeisti, con questa guida tutta rigorosa, la tedesca, non dice niente? Ma a me non è sembrato così aggressivo. Va bene, anche a noi. Il fatto che l'Europa deve avanzare ancora e che c'è una grande tappa, che è quella dell'unione bancaria, dove forse ci manca un pochino ancora di solidarietà, diciamo, europea, insomma, ecco. E Draghi, che come un direttore d'orchestra, cito il ministro Saccomanni, è un direttore d'orchestra e scandisce il ritmo della ripresa, secondo lei cosa sta suonando? La nona di Beethoven, cosa sta suonando? La quinta, l'ha nominata Saccomanni, dicendo che Draghi tutte le volte dice che la ripresa è usa tre aggettivi molto negativi uno dopo l'altro, come i tre colpi della quinta di Beethoven. Si fa quel che si può con la politica monetaria. Quello su cui ha molto insistito sia lui che gli altri partecipanti, oggi avevamo qui anche il vicepresidente della BCE, Vittor Costanzio, hanno insistito molto, è che la politica monetaria più di tanto non può fare. In una situazione in cui l'economia è molto inefficiente, in cui si producono le cose sbagliate nei posti sbagliati, in cui le pubbliche amministrazioni non funzionano, in cui i governi hanno le inefficienze e le instabilità che conosciamo, la politica monetaria può creare delle condizioni, diciamo, di finanziamento agevole, ma più di tanto non può se fare. Il cavallo non vuole bere, gli puoi dare quanta acqua vuoi. Mi commenta quest'ultima notizia, è appena uscita, praticamente l'IFO, che è il più importante istituto di ricerca in Germania, ha stimato che l'anno scorso la Germania abbia chiuso con il surplus commerciale, cioè la differenza tra export e import, a vantaggio delle esportazioni, più alto al mondo, superiore anche alla Cina, 190 miliardi di attivo contro i 142 della Cina. Ora, bravi tedeschi, ma questo potrebbe essere un ulteriore elemento per dire che questa gestione dell'Europa sta ammazzando alcuni paesi ma ne sta avvantaggiando degli altri? Beh, la Germania ha un avanzo che è l'altra faccia dei nostri dei disavanzi di altri paesi. Questo è successo anche alla Cina. Da sempre abbiamo il problema che quando ci sono queste situazioni sono brutte, pericolose e creano squilibri, e purtroppo da sempre l'aggiustamento grava sempre sui debitori, su quelli che vanno in deficit invece di quelli che vanno in avanzo. Ma no, ma perché visto che esporta così tanto potrebbe anche spendere un po' in Europa, questo viene chiesto alla Germania e agli altri paesi, no? Certamente, potrebbe aiutare l'aggiustamento spendendo di più. Intendiamoci, un po' questo succederà, l'anno 21 succede perché lo hanno praticamente stabilito con il programma di governo della nuova coalizione. Aumenteranno le spese diciamo interne tedesche e questo creerà credo una situazione un pochino più favorevole della domanda. Speriamo che questo però non addormenti tutti sulle riforme. Questa ha ragione, cioè, che l'aiuto esterno non ci faccia poi dimenticare che dobbiamo fare i compiti a casa anche noi. Grazie anche a Franco Bruni, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Focus Economia torna e io con lui domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.